ദേവത കഥകൾ. Acqua nel deserto. Una volta, in un villaggio lontano, vivevano due abili artigiani, James e Alex. Erano ottimi amici e adoravano creare oggetti in ceramica. Creavano giocattoli, pentole, padelle, posate e molto altro ancora. Tuttavia, dato che era un piccolo villaggio, James e Alex non guadagnavano molto per il loro lavoro. Le persone non avevano abbastanza per pagarli, ma James e Alex non si lamentavano, o almeno non ad alta voce. Ah, James, impara a concentrarti su una cosa alla volta. Devi conoscere i tuoi punti di forza. Una volta compreso il tempo impiegato per completare un pezzo, è possibile fornire la data approssimativa di consegna al prossimo cliente. No, sto bene, posso farlo. Dobbiamo creare più oggetti per guadagnare di più. Una volta finito il lavoro in sospeso di ieri, inizierò con i nuovi ordini che sono arrivati oggi. Capisco la tua preoccupazione, amico mio. Ma come potrà mai accadere se non consegni il tuo lavoro in tempo? Mi stai stressando! Andrà bene, Alex. Non ti preoccupare. Alex era un artigiano determinato e concentrato. Ogni volta che iniziava a fare un oggetto, lo finiva in tempo per la consegna. Faceva un solo oggetto alla volta. Questo lo aiutava a concentrarsi sul suo compito e a finire il lavoro per tempo. Ma James non era affatto concentrato. Non diceva mai di no a nessuno ed era costantemente sepolto di lavoro. Prendeva molti ordini tutti assieme e non consegnava mai in tempo. Una volta alcuni turisti arrivarono nel loro villaggio. Oh wow! Questo elefante è bellissimo! Quanto costa? Per questo sarebbero 2 monete d'argento. Che cosa? Così poco? Non pensi che sia davvero troppo poco per un tale oggetto? È quello che facciamo pagare a tutti. I paesani qui non possono pagare molto e non posso farti pagare più di quello che pagano loro. Mi piace la tua onestà, ma non guadagni abbastanza per la tua abilità. C'è una grande città dall'altra parte di questo deserto. Perché non porti tutti i tuoi oggetti per venderli là? Là le persone vorranno sicuramente pagarti di più. Guadagnerai molto. Oh, lo faranno? Ci penserò sicuramente. Grazie. La ragazza pagò 2 monete d'argento e comprò l'elefante. Ma quella notte... James, sembri così stanco. Non ho dormito per 2 notti. Ho finito tutto il mio lavoro. Mi sento benissimo ora. È fantastico. Ascolta, penso che dovremmo portare tutti i nostri oggetti nella grande città. Non stiamo guadagnando abbastanza qui e il carico di lavoro è eccessivo. Sono d'accordo sul carico di lavoro. Forse hai ragione. Ma quello è un grande deserto. Come lo attraverseremo? Ho visto carovane che attraversano il deserto ogni pochi giorni. Ci sono molti cammelli e carri. In effetti, una carovana parte domani stesso. Possiamo attraversare il deserto con loro. È vero. Ho sentito che ci sono un sacco di persone benestanti dall'altra parte del deserto. Forse troverò una bella sposa e la mia felicità per sempre laggiù. Chissà? È vero. Riposa ora e riposa bene. Hai bisogno di recuperare il tuo sonno perso. Partiremo domani mattina con la carovana. Quella notte James e Alex dormirono pacificamente. La mattina dopo riempirono il loro carro con i loro oggetti, cibo e molta acqua. Questo sarebbe stato un lungo viaggio e dovevano essere preparati. Il viaggio iniziò con una buona nota. James e Alex erano fiduciosi ed entusiasti per il loro futuro nella grande città. Parlarono di come avrebbero guadagnato più denaro e imparato nuove abilità e preparato più modelli e oggetti. La carovana si fermava a pranzo, nel pomeriggio e poi a cena, la sera. Il viaggio andò avanti per alcuni giorni, ma il caldo torrido stava diventando insopportabile. Che sta succedendo? È sempre stato così caldo? Io della pece così ho bisogno di acqua. Abbiamo portato molta acqua, ma ora sta finendo. Ah, questo caldo rende molto difficile viaggiare, James. Vero, e stiamo finendo l'acqua. Vedete, i vasi dei viaggiatori erano fatti di terracotta. Con la temperatura improvvisamente in aumento, l'acqua nei vasi veniva assorbita rapidamente. Come sopravviveremo se finiremo tutta l'acqua? Ci vorranno ancora 2 giorni per raggiungere la città. Ho un'idea. Perché non iniziamo a scavare per trovare l'acqua? Oh, sì, sono sicuro che se scaveremo abbastanza in profondità troveremo dell'acqua da qualche parte. Giusto, scegliamo un punto e iniziamo a scavare. La gente portò i propri cammelli e si fermò nel posto scelto. Sei sicuro che troveremo l'acqua qui? Lo scopriremo solo scavando e arrivando in profondità. I viaggiatori iniziarono a scavare una buca nel terreno. Il tempo passava, ma non c'era traccia di acqua. Te l'ho detto, questo è inutile. Trovare l'acqua nel deserto è quasi impossibile. È difficile, James, ma non impossibile. Abbiamo solo bisogno di andare avanti. Lentamente, uno ad uno, i viaggiatori iniziarono a smettere di scavare. Erano tutti molto stanchi. Tornarono ai loro carri e riposarono per un po'. Ti aiuterò ancora un po', va bene? Lasciami riposare un pochino adesso. Oh, James, sono così stanco. Forse dovremmo riposarci un po'. Sì, vai a riposarti per un po'. Scaverò ancora un po'. Alex tornò al suo carretto e si stese per riposare. Immediatamente, a causa del caldo torrido e della tensione fisica, si addormentò. Dopo un po', un viaggiatore andò da James. Ehi, sembri un duro. Lo stai facendo senza sosta. Ma per dirti la verità, penso che stiamo perdendo il nostro tempo qui. Cosa intendi? Non penso che ci sia acqua qui. Conosco un punto in cui troveremo sicuramente l'acqua. Veramente? Dove? Il viaggiatore mostrò un posto a James in cui scavare e andò a riposare nel carro. James scavò qualche metro più in profondità, ma non trovò acqua. Dopo un po', un altro viaggiatore si avvicinò a lui. Ehi, chi ti ha detto di scavare qui? Sei stupido? Proprio lì troveremo un posto dove troveremo facilmente molta acqua. Ne sei certo? Dov'è quel posto? E così fece. James prese la sua vanga e andò a scavare un'altra buca a pochi metri di distanza. Ancora una volta scavò un paio di metri prima che un altro viaggiatore gli dicesse di un punto diverso nel quale certamente avrebbe trovato l'acqua. Questo andò avanti per ore. Il terreno era pieno di buchi e nessuno di questi era abbastanza profondo per trovare l'acqua. Alex si svegliò e rimase scioccato. James, cosa stai facendo? Cercando di trovare l'acqua. Questi viaggiatori continuano a darmi dei consigli su dove poter trovare l'acqua. Ho scavato tante buche nel terreno, ma non si trova una singola goccia d'acqua. Questo è quello di cui ero preoccupato. Ti rendi conto di quanto tempo e fatica hai sprecato? Vai e conta tutte le buche scavate e quanto sono profonde. Avresti potuto facilmente trovare l'acqua se avessi messo tutto il tuo impegno in un unico posto. Non puoi ascoltare tutti e perdere la concentrazione. Ah, hai ragione. Ho perso la concentrazione. Avrei dovuto continuare a scavare in un punto. Alex chiamò tutti e chiese loro di scavare nello stesso punto in cui avevano cominciato. Scavarono per un po' e finalmente trovarono l'acqua. Grazie. Tutti bevvero l'acqua e riempirono i loro vasi vuoti. La carovana raggiunse la grande città in 2 giorni. Come previsto, James e Alex guadagnarono bene con le loro creazioni. vennero elogiati e il loro impegno fu molto apprezzato. Ben presto divennero ricchi e assunsero altri artigiani per realizzare molti oggetti. Le loro creazioni venivano vendute ovunque, nei mercati locali e internazionali. James aveva imparato una lezione molto importante. Tutto ciò è successo perché non ho perso la concentrazione e ho lavorato su una cosa alla volta.